263. Pollo alla contadina. Prendete un pollastro e steccatelo con alcune ciocchette di ramerino e con uno spicchio d'aglio diviso in 4 o 5 pezzi. Mettetelo al fuoco con un battutino di lardone e conditelo con sale e pepe di fuori e di dentro. Quando sarà rosolato da tutte le parti, aggiungete pomodori a pezzi, tolti nei semi, e quando questi saranno disfatti, bagnatelo con brodo o d'acqua. Rosolate a parte nell'olio, nel lardo, nel burro, alcune patate crude tagliate a spicchi. Fate loro prendere sapore nell'intinto del pollo e servitele per contorno. Al lardone sostituite il burro se volete il pollo di gusto più delicato. 264. Pollo con la marsala. Tagliate il pollo a grossi pezzi e mettetelo in cazzaruola con un battutino di cipolla tritata fine e un pezzetto di burro. Conditelo con sale e pepe e quando sarà ben rosolato aggiungete del brodo e tiratelo a cottura. Passate il sugo, digrassatelo se occorre, e rimettete il pollo al fuoco con un po' di marsala, levandolo appena abbia ripreso il bollore.